quarto di luna cambia il tempo, porterà fortuna. Luna blu è ancora qui con noi, non lo senti? Non ti ha mai lasciato, io te l'ho sempre detto. Per questo